Az-Zukhruf. Gli ornamenti d'oro. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Hamim. Hamim. Wal kitabil mubin. Per il libro esplicito. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ne abbiamo fatto un Corano arabo, affinché comprendiate. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. Esso è presso di noi, nella madre del libro, sublime e colmo di saggezza. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Dovremmo dunque escludervi dal monito perché siete gente perversa? وكم أرسلنا من نبي fil awwalin. Quanti profeti abbiamo inviato agli antichi? Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. E nessun profeta venne loro senza che lo schernissero. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. Ne facemmo perire di ben più temibili. Già è nota la sorte degli antichi. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. E se chiedi loro chi ha creato i cieli e la terra, di certo risponderanno: li ha creati l'Eccelso, il Sapiente. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Colui che della terra ha fatto una culla e vi ha tracciato i sentieri perché possiate guidarvi. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. E dal cielo ha fatto scendere con misura un'acqua tramite la quale ridiamo la vita ad una terra morta. Allo stesso modo vi resusciterà. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Ha creato tutte le specie e vi ha dato vascelli e animali sui quali montate. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Sicché possiate sedere sui loro dorsi e ricordiate i favori del vostro Signore dicendo: Gloria a colui che ha messo tutto ciò a nostro servizio. Mentre non eravamo neppure in grado di domarli. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. In verità, noi ritorneremo verso il nostro Signore. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Gli hanno ascritto i suoi servi come fossero una parte di lui. L'uomo è davvero ingrato. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. Si sarebbe forse preso delle figlie tra ciò che ha creato e avrebbe concesso a voi i maschi? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Quando si annuncia uno di loro ciò che attribuisce al compassionevole, si adombra il suo viso e si rattrista. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ. Quest'essere allevato tra i fronzoli, illogico nella discussione? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Considerano femmine gli angeli, i servi del compassionevole. Sono forse stati testimoni della loro creazione? La loro affermazione sarà scritta e saranno interrogati in proposito. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. Dicono: se il compassionevole avesse voluto, non l'avremmo adorate. Non hanno alcuna scienza in proposito, non esprimono che mere supposizioni. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. O forse, prima di questo, demmo loro una scrittura alla quale si attengono? بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى No, dicono piuttosto, abbiamo trovato i nostri avi far parte di una comunità. Noi seguiamo le loro orme. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Mai inviammo prima di te alcun ammonitore ad una città, senza che quelli che vivevano nell'agiatezza dicessero: abbiamo trovato i nostri avi far parte di una comunità e ricalchiamo le loro orme. Qala awalaw jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Diceva l'ammonitore: anche se vi portassi una guida migliore di quella che seguivano i vostri avi? Rispondevano: invero, non crediamo in quello con cui siete stati inviati. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Ci vendicammo di loro. Considera perciò quel che subirono, quanti ti tacciavano di menzogna. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. E ricorda quando Abramo disse a suo padre e al suo popolo: io rinnego tutto quel che voi adorate. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Eccetto colui che mi ha creato, poiché è lui che mi guiderà. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. E di ciò fece una parola che doveva perpetuarsi nella sua discendenza. Forse ritorneranno ad Allah. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. E anzi, concessi a quelle genti e ai loro avi temporaneo godimento, finché fosse giunta loro la verità e un messaggero esplicito. Ma quando la verità giunse loro, dissero: è magia. Noi non crediamo in essa. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. dicono: perché questo Corano non è stato rivelato ad un maggiorente di una di queste due città? أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Sono forse loro i dispensatori della misericordia del tuo Signore? Siamo noi che distribuiamo tra loro la sussistenza in questa vita, che innalziamo alcuni di loro sugli altri, in modo che gli uni prendano gli altri al loro servizio. La misericordia del tuo Signore è però di gran lunga migliore di quello che accumulano. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Se non fosse per il fatto che in tal modo gli uomini sarebbero diventati una sola comunità di miscredenti, avremmo fatto d'argento i tetti delle case di coloro che non credono al compassionevole, e scale per accedervi. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. Ugualmente avremmo fatto per le loro case porte e divani d'argento sui quali distendersi. وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. E ornamenti d'oro. Tutto ciò non sarebbe che godimento effimero di questa vita, mentre l'altra vita presso il tuo Signore è per i timorati. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Assegneremo la compagnia inseparabile di un diavolo a chi si distoglie dal monito del compassionevole. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. In verità, i diavoli frappongono ostacoli sulla via di Allah, e gli uomini credono di essere sulla buona strada. Hatta iza ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayn. Quando poi un tal uomo verrà a noi, dirà: ahimè, quanto vorrei che tra te e me ci fosse la distanza che separa i due orienti. Che detestabile compagno! ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Ma non vi servirà a nulla in quel giorno, poiché siete stati ingiusti, e pertanto sarete insieme nel castigo. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Puoi forse far sentire il sordo o dirigere il cieco e colui che persiste nell'errore palese? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Ci vendicheremo di loro, sia che ti facciamo morire, أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Sia che ti facciamo vedere quel che gli promettemmo, poiché noi prevarremo su di loro. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Stringi con forza quello che ti è stato rivelato. Tu sei sulla retta via. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. In verità questo è un monito per te e per il tuo popolo. Presto sarete interrogati in proposito. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Chiedi ai nostri messaggeri che inviamo prima di te se mai indicammo dei da adorare all'infuori del compassionevole. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Già inviammo Mosè con i nostri segni a Faraone e ai suoi notabili. Disse, io sono il messaggero del Signore dei Mondi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Quando mostrò loro i nostri segni, essi li schernirono. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Mentre ogni segno che facemmo vedere loro era più grande dell'altro. Li colpimmo con il castigo affinché tornassero a noi. بَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Dissero: O mago, implora per noi il tuo Signore in nome del patto che ha stretto con te. Allora certamente ci lasceremo guidare. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Quando poi allontanammo il castigo da loro, vennero meno al giuramento. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون Faraone arringò il suo popolo e disse: O popolo mio, forse non mi appartiene il regno dell'Egitto con questi canali che scorrono ai miei piedi. Non vedete dunque? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Non son forse migliore di questo miserabile che sa appena esprimersi? فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ Perché non gli sono stati lanciati braccialetti d'oro dal cielo? Perché non lo accompagnano schiere di angeli? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Cercò così di confondere il suo popolo, ed essi gli obbedirono. Era gente malvagia. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ Quando poi ci irritarono, ci vendicammo di loro e li affogammo tutti. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Facemmo di loro un ricordo e un esempio per i posteri. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. Quando viene proposto l'esempio del figlio di Maria, il tuo popolo lo rifiuta. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Dicendo: I nostri dei non sono forse migliori di lui? Ti fanno questo esempio solo per amor di polemica, che sono un popolo litigioso. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Egli non era altro che un servo che noi abbiamo colmato di favore e di cui abbiamo fatto un esempio per i figli di Israele. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ ملائكة في الأرض يخلفون. Se volessimo, trarremmo angeli da voi, ed essi vi sostituirebbero sulla terra. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Egli è un annuncio dell'ora, non dubitatene. E seguitemi, questa è la retta via. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Non ve ne distolga Satana, egli è vostro dichiarato nemico. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Quando Gesù portò le prove evidenti, disse: Sono venuto a voi con la saggezza e per rendervi esplicita una parte delle cose su cui divergete. Temete Allah e obbeditemi. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. In verità Allah è il mio e vostro Signore. Adoratelo allora. Ecco la retta via. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Ma le loro fazioni furono tra loro discordi. Guai agli ingiusti per via del castigo di un giorno doloroso. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Aspettano altro che l'ora? Verrà all'improvviso, senza che se ne avvedano. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. In quel giorno gli amici saranno nemici gli uni degli altri, eccetto i timorati. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Verrà loro detto: O miei servi, oggi non avrete paura e non sarete afflitti. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Poiché siete coloro che credono nei miei segni e siete sottomessi. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Entrate nel paradiso voi e le vostre spose, sarete onorati. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Circoleranno tra loro vassoi d'oro e calici, e colà ci sarà quel che desiderano le anime e la delizia degli occhi. E vi rimarrete in perpetuo. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Ecco il paradiso che vi è stato fatto ereditare per quel che avete fatto. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. E vi saranno molti frutti e ne mangerete. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. I malvagi rimarranno in eterno nel castigo dell'inferno. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Che non sarà mai attenuato e in cui si dispereranno. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Non saremo noi ad essere ingiusti nei loro confronti, sono loro gli ingiusti. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Urleranno, o Malik, che ci finisca il tuo Signore. Risponderà, in verità, siete qui per rimanervi. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Già vi portammo la verità, ma la maggior parte di voi detestava la verità. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Hanno voluto tendere le loro trame? Anche noi abbiamo tramato. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. O forse credono che non ascoltiamo i loro segreti e le loro confidenze. Invece sì, i nostri angeli registrano dinanzi a loro. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Di, se il compassionevole avesse un figlio, sarei il primo ad adorarlo. سبحان رب السماوات والأرض رب بالعرش عما يصفون. Gloria al Signore dei cieli e della terra, al Signore del trono, ben al di sopra di quel che gli attribuiscono. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Lasciali divagare, giocare, finché non incontreranno il giorno che è stato loro promesso. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Egli è colui che è Dio nel cielo e Dio sulla terra. Egli è il saggio, il sapiente. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Sia benedetto colui cui appartiene la sovranità dei cieli, della terra e di quel che vi è frammezzo. Presso di lui è la scienza dell'ora. A lui sarete ricondotti. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Coloro che si invocano all'infuori di lui non hanno alcun potere di intercessione, eccetto coloro che avranno testimoniato la verità con piena conoscenza. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Se chiedi loro chi li abbia creati, risponderanno certamente Allah. Come possono allora allontanarsi da lui? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. E a quel grido del profeta, O Signore, questo è un popolo che non crede. فاصفح عنهم وقل سلام. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Risponderà Allah, Allontanati da loro, o Muhammad, e di pace. Presto sapranno.